c'è nessuno a scrivere le robe. Attenzione, dice, c'è qualcuno. Vieni lì, no, butta giù la pasta che è pronta. Chi è? Ui, Pinuccio. Ui, ciao, Manuel. Vabbè, tutto ok? Beh, mi, adesso ho finito di fare la luce, mangio e alle 9:30 sbiscio, sono di servizio. Aia, freddo quella. Cazzo, freddo, oh yeah, lascia per me. Mi sbaglio preparato quella coperta, siccome c'è quella coperta che accende la cinta di sigari, non te la mangio. Mangio la ricadurissa. Sì, no, ogni tanto se ti dentro una macchina c'è del riscaldamento e ci riscalda. Ma io sono dentro la macchina, non sono fuori, ma rimango fuori io. Ah, no. Ma pensavo che fosse le gabbiotte. No, ci sono gabbiotte, le gabbiotte siamo di giorno. Cazzo, già vi possono gabbiotte, sono per correnti. Vabbè. Ma se il riscaldamento in macchina non ce l'hai. Eh? Non ce l'hai il riscaldamento in macchina. Sì, in macchina sì, però accendere sempre così il motore non è che li fa tanto bene. E dopo consuma pure, penso di acqua. A parte questo, a parte quello, infatti già mi hanno portato due copertine, quelle in fai, e per coprirmi nel più e nelle gambe, che cazzo di congeleggi. Chissà come fanno quelli che vivono in macchina, io ci penso sempre, su internet ho visto su TikTok, ce ne sono due o tre che vivono in macchina, uno addirittura vive in un bosco, con una capanna di legno che si è fatto lui, tutti quelle frasche con cassoli, tutti, che dove pioggia inizia già tutta le madre. Io ho visto anche io, sono abituati. Yeah, per carità. Mi ha sentito un attimo già. Ehi, qua sono. Boss. Prego, qua è modulazione, la marrizia, la pirata, c'è nessuno in ascolto. Ciao, la pirata, Gianni doppio rudo a Sassa, io avanti. Non ho capito, come ti chiami? Doppio rudo. Gaffa. Dove sei, a Marrizza? Sono ammarrita, come mi ricevi? Abbastanza bene. Prova che ti do il controllo. Anche io ti sento bene, dai. Confronto che c'è a Sassari va bene. L'altro giorno li sentivo molto bassi dagli altri di Sassari. Sante Roma, Radio 5 stai arrivando qua. Che radio stai usando? Adesso faccio una prova, accendo il lineare e vediamo come arrivi. Ma come arrivi tu? Il lineare serve a te per arrivare più forte. Ah, no, come ti arrivo io, no, come mi arrivi tu. Prova. Ma Roberto Quadrato c'è sempre in ascolto. Roberto Quadrato entra dopo che esce dal lavoro, solitamente, quando ne ha voglia. Per vedere che frequenza si usa con il costo, con VHF, dove trasmetto. Non lo so io, dipende dalle giornate. Perché gli ho dato una radio VHF e io qua ne ho un'altra a vedere come sintonizzare, perché io non la uso mai qua. Ho capito. Magari se all'ascolto te lo dirà Roberto. Ma in macchina sì adesso? No, sono stazione fissa. Marrizza è bello perché c'è campagna, mare, c'è tutto. Si sta bene oggi, una bella giornata, c'è il mare, forza olio, perfetto. Io avevo un amico che va a casa lì, scendevi la discesa e c'era il mare, in più aveva la campagna sopra e c'aveva tutto mare e campagna. Gappa. E quindi vai a pescare. Ogni tanto vado a pescare, mi ero mezzo intenzionato a uscire a pescare, sto organizzando un gommone. Ma buttare parametri? Anche parametri già li ho sempre fatti, ma volevo uscire a vedere a Calamari cosa c'è. Calamari più freddo fa più c'è. Lo so, infatti oggi era una buona giornata, c'era quel freddo umido stasera, già le mani mi si stavano congelando. I Calamari, se tu riesci ad andare dove ci sono quelle petroliere e non vengono al mare, lì è pieno. Ma mi sa non ce l'è errata adesso. No. Ma se capita il passaggio, io già li so i pulsi dove andare a prendere, anche a terra, se mi giove. Anche 12, 13 nel primo. Da terra c'è un amico che va lì a Porto Torres, fuori al porto, quelle banchine dove c'è il loro asi, vanno tutto sistemato. Vanno sempre lì dietro, qualcosa già la prende. Ho capito, dove c'è il muraglio? Lì, dove c'è quel bar all'ingresso, e poi entrano dentro, c'era la gru e facevano tutto il muraglio. Ho capito, no, ma c'è tanta lì, che lì c'ho calamari diesel. Basta andare alla chiesetta di Bala vicino lì, dove c'è la luce, te ne prendi, a Puglia. Sì, già lo so, già si prende, noi quei 10 calamari, 15 calamari, se uno ha la giornata buona li prende. Se non prendi l'artificiale, a chi si rimette di un mese, si aggancia. A Puglia, la giù messo artificiale. Io ho le canne 2 anni ferme e non le so più usare. Mi dispiace perché è una passione che ho sempre avuto, io facevo, lavoravo a Porto Torres, facevo, uscendo dal lavoro e andavo a pescare, cioè avevo già tutto, l'esca e tutto, pronta, e andavo subito a pescare. Tutte le sere, 1, 2, 3 ore me la facevo, poi ritornavo a casa. È un bel passatempo, io stesso sono da un po' senza andare a calamari, ho provato quest'estate, agosto. La sera qualcuno l'ho preso, 2, 3 calamari, giusto per vedere cosa c'è. Ma i calamari escono quando c'è freddo, le sepi, i calamari, tutta quella roba lì. Quando c'è un po' di freddo escono. Infatti adesso domani vado proprio il gommone, il motore, l'ho sistemato, vediamo come va. Se va bene vado a calamari. Solo che ti gaccareggi, casino. Un giubbotto e una cuffia per i tifari rossi. Vabbè, allora ci avevo tutta la tuta imbottita, proprio pantalone e giacca, tutto quanto imbottito per fatto. Ce l'ho tuttora, ma non le sto usando. Ti fanno sudare, me. Se torni a casa tutto bagnato, ti fanno sudare addosso. Quella roba sì. Perché è felpato dentro e fuori è antipioggia, capito? Quindi sudi un bel perché non traspira la pelle. Nel 2018 quando uscivo ne facevo a bacinelle, ne facevo ma ogni freddo in gommone. Quindi un bel di freddo, quello sì. Di avere la senosite, di avere il dolcicollo, lui. Poi la mare di Vega e Galamari. Ok, ascolta, ti lascio un po' che andiamo su altro campanello, devo guardare chi è. Ma vai, tranquillo, sono qua. Ui, Pinuccia. Ha fatto virare, entra. È arrivata la gente, un attimo. Ha fatto il cazzo, si è perso. Ha detto che rientrava da bui. Non ha giubiltissimo. Ma quando adesso qua, mi sono col telefono, mi stavo guardando un po' di roba. Se entra, va bene, se lo faccio scaldare gli apparecchi, perché è meglio che li faccia scaldare ogni tanto. Adesso non lo sta entrando nessuno di nuovo, sono entrati i bambini da buoni, torna da capo. E chi c'era? Io cazzo c'avevo più di una vita che non so che niente, va bene che non è troppo che nulla. Ah, è entrato Marco Corno, è entrato Claudio, è entrato, come si chiama, Carlo. Di gente, Antonio Bobolo, io e diverse persone sono entrate, è entrato anche il profeta. Vabbè, è un metro di gira, no, io insomma sono entrato così perché devo fare la notte, durante la settimana ero tutta la settimana che facevo dalle 2 fino a dalle 2 e mezza fino alle 11. Vabbè, meglio quello che lo giuro. Vabbè, ogni persona ci facciamo 2 turni di notte a ogni persona, 2 notti e un riposo. Ci vuole, se notti crepa, e fare tutte le notti si crepa. No, non esiste. No, no, tutte le notti no. Assolutamente. Io ho un'amica che sta andando da una signora, da due anziani che tiene la notte. Il primo periodo è poca, va bene, sono tranquilla, poi cazzo si rimbeggia nella rocchia, va, ha detto già io sto crepato, non ce la faccio più, mi sa che è molo perché mi sta prendendo l'esaurimento, non sto riposando nulla la notte, e poi quando torno a casa mi devo fare le cose di casa, cioè, ma è proprio stressata, non mi lavo più, le notti, lei le fa tutte le notti. Per una cazzata, mi danno una cazzata. Lo so, ti danno cos'è, guardia armata. Se fa la notte perché guardia armata? No, no, no, no, no, lei fa assistenza anziani, non è guardia armata. Fa assistenza anziani, capito? Un altro lavoro. Vabbè, dunque la notte è brutta, lo so. Ti crepassi perché fai ore allucinanti. E così, cosa cazzo devi fare? È quella la vita, non puoi fare. Ma tu addormi, sinceramente? Sì, addormi, ho già, ti si può bloccare, ti puoi fare un'oretta, non di più. Non è che dormi, se dormi sveglia, dai. Ho capito, sei sempre su chi vola, dai. E allora non è che puoi dormire cazzo che non intendi manco di piano un attimo, no? Calati gli occhi e ti si cala, è normale che ti si calano gli occhi, perché l'altro giorno ho dato il cambio al capozona che era lì dietro un quacchio, non era la tardi, cazzo, sono entrato, vento, manco inteso, manco una macchina, ha giunto toccato l'ombinettina, ma a dormi, cazzo mi ha su che si è appigliato. Mi stava che io mi avessi chiamato. Cazzo gli ho fatto io, non giorno del cazzo l'ambulanza, perché pensavo che eri muschio. E lo sai cos'è? Che se magari rubano quando tu stai dormendo, si rabbigliano con te, che lo fa finisce. È proprio un rischio dormire. La responsabilità ce l'hai tu, e poi non sai che cazzo entra, che non è, che se dorme ti faccio applicare che dono davanti, con qualche piccola in mano non so cosa cazzo mi ci vuole. Ma infatti quel tipo di lavoro lì dovreste essere armati. Come si fa a farlo disarmati quel lavoro? Faccia più un'armata e ti para, non più far nulla. Non so, ma a me mi è capitato quando ero a Milano, a me mi è capitato con contrafuoco, con uno con l'altro. E se ce l'abbiamo vista brutta tutte e due. Addirittura era il capo lo barone della villa, un conte era. Siccome questo coglione non aveva avvisato che metteva la guardia la notte, e il conte pensava che era un ladro, che si stava al buchetto di mubi, di quadri di valore, veniva a poco dopo il valore, chi? Cazzo non era la di un giorno di capra, me lo ricordo ancora, era l'ultimo dell'anno. Cazzo non era di venga che cazzo una cappatoio non ci ha fatto, e che di cazzo ha detto? Che ha sparato a lui? Ce l'abbiamo vista brutta, ce l'abbiamo vista brutta perché non ci credeva che era la guardia, perché quel coglionato, il capozona, non ha avvisato a loro, capito? È normale che lui, poi alla fine, parlare, gli ho fatto vedere lì il tesserino, tutto quanto, io ero con la macchina in borghese, eppure non ero quello che l'ha vigilato. E anche per quello che pensavo che era cacellato. E voi eravate armati? Ah? Voi eravate armati? E allora, io ero su e ero guardia armata. Cazzo, se faccio qualche blindato, non faccio solo stancamento. Boh. Ma queste cose qui sono delicate, bisogna farle per bene, bisogna avvisare. E se no, giustamente sento i rumori e si sospettisce. Sì, ma l'indomani l'ha trovato l'ugura, io, Cagliaritano era il capozona. Alla fine, come se mi veniva, il cazzo girava dalla crabbata che girava. Infatti ci siamo sempre rimasti la vita a voi, se quello esce ad in capo, e meno male che si è avvicinato, che si è fatto avvicinare, perché se uno pensa così, ma che si fate vedere, ti pare, massa. Cazzo, c'aveva questa pistola, già, ma pistola, cazzo, quella canna lunga, ti ricordi quello dell'ispettore Cala, con la pistola, quella con la canna lunga, a tamburo, cazzo, ne apri chiude, bella, Le mangio, lo so. Bravo, la mangio, la mangio, cazzo, ne apri, bella, bella, bella, Cazzo, ha detto, guarda, se ci sparevamo a vicenda, io dico, non so come cazzo ne uscivamo. Quella pistola ti passa di parte in parte. È una pistola che è da cauguri. Sì, anche con la mia, che se va più io, non ti faccio a parte in parte. Devo fare un buco, che cazzo, date la mano di cavolo, devo fare un buco. Che pistola avevi? La 9x21, ce l'aveva i carabinieri prima quella lì. E io con la Bruni, la Novi Lunga. Sono belle, poi volevo prendere quella tamburo, ma l'hanno sconsigliato, poi ho preso quella lì, la 9x21 e il problema che ci avevano con le pistole lì, che quando sparavi 4-5 colpi iniziava a bloccarsi, perché scavava la canna si bloccava. Allora dovevi scavellare, tornare a rimettere le cartucce in canna, e un casino era, secondo me era la molla, a me mi avevano detto che era la molla da cambiare, alla fine la buraggio di tutte. No, è vero, le semiautomatiche sono tutte così, anche la mia faceva così, le semiautomatiche sono tutte così, si inceppa. E infatti quando scaldava, dopo 1, 2, 3 colpi andava bene, quando iniziava l'aereo si bloccava, dovevi scavellare, togliere il caricatore, rimetterlo, ma un casino. Per praticità sono più pratiche quelle a tamburo, ma a me mi piacciono più le automatiche, le semiautomatiche, sono più belle come pistole, quelle a tamburo pare di giocato. No, sono belle, sì, per me sono belle per bellezza, questa è che a tamburo non ne va nulla, a parte che sono pericolose perché c'è sempre il corpo in canna, invece con quella che avevo io mettevi la sicura ed eri sicura, perché io stavo entro io nella macchina, faccio volantinaggio pure, e quindi era pericoloso, allora mettevo la sicura, per il sicuro bisogna passare un golpe. Quella ci vuole sempre, se c'è sempre la pistola a carica con colpo in canna, la sicura ci vuole sempre. E vabbè, e come mai qua non vi danno la pistola? C'è una sala di fiducioso, ragazzi, adesso ho fatto, ho portato due curriculum alla Coppicevi, alla moglie, poi stanno cercando personale anche all'ospedale, ma guardi armata però, poi vediamo. Sono malissimo. Ma tu dovresti, cioè, c'hai già il porto d'armi anche qua? Perché io so, per dire, un amico mio che è partito a Treviso, l'ha fatto in due comuni, a Oderzi e a Treviso, perché lui faceva, metteva i bigliettini nella serrata all'inizio, adesso va bene, portava lui, ma prima metteva i bigliettini, facevano 300 km a notte. Sì, anche io facevo volantinaggio, allora facevo cantonamento, prima volantinaggio, facevo volantinaggio per un'oretta in giro in tutto il perimetro del paese, poi dopo le 9, 9 e mezza, anche alle 10, facevo dalle 10 e fino alle 6 e mezza di mattina, cantonamento in questa villa qua. Lì, dove c'è questa dico io, ci sono quelle bande di albanesi che vanno a aprire le ville e non ci vuole andare nessuno, li prendono da qua perché ci vuole siciliani e sardi, non ci va nessuno a fare questi lavori perché sono pericolosi. Ormai adesso la gente non ne fa più il lavoro come faccio io, perché sono sottopagati. che io adesso finisco il contratto a fine mese. Gli ho detto, o mi fate il contratto indeterminato, perché a me mi dovete fare già il contratto indeterminato, che io sono già 3 anni con voi e mi state rinnovando il contratto mese per mese e siete già in torto. Adesso, se volete che continuo, mi fate il contratto indeterminato e più il coso di livello, mi aumentate la paga, perché se no, se dite ma così, va bene così, ma vi faccio male, gli ho detto, e vi faccio male, eh. E tu ci risolverai le cose, lui, per carità. Tutti vogliono, vogliono, però pretendono, ma non danno, capito? Ma non se vedono, ma con cazzo, adesso finisco questo mese qua di novembre, poi mi farò il servizio lì alla, dove ero prima, tutto il mese di dicembre nei concerti. E cosa fai lì? Inizio per sicurezza, nei concerti, quando c'era Vasco Rossi, c'era... ne ho fatto di servizi, lui. Ma qua a Sassa? Allora, Sassa, Larghero, Urbia, Castel Sardo. Assicurti? No, è una... è un'azienda privata, di HG. Ah, e quest'anno a Capodanno c'è... ci sono tutto tre, Tabacchi Speciali. Già lo so. Piazza le sì, non sarà niente che fa. È un casino che mi sarà. E lì bisogna andare da questo, se vuoi partecipare per trovare un posto vicino dal parco, devi andare presto. È aperto comunque. Sì, è aperto, però anche quando c'era il concerto da poco, che sono andato io, c'era 105, c'erano Balì e cose, questo e quell'altro, c'erano le transenne, c'erano quelli che ci controllavano il Morsello, mi hanno fatto aprire il Morsello e poi mi hanno fatto aprire solo lo scompartimento. Se avevo un piccolo abucendo negli altri scompartimenti non me li hanno controllati, mi hanno controllato solo quello centrale, domani c'è solo il contrappuglio, gli occhiali, che non c'ho niente lì. Vabbè, guarda, tranquillo, non me l'hanno controllato, ne avevo dei scomparti, ne ho uno, due, tre, quattro, uno solo me l'hanno controllato. E noi lo stesso controllavamo le borsette, se c'avevano bottiglie di plastica piene, bottiglie di vetro, non dovevano passare, assolutamente, perché magari se uno che a casa ciappava lanciavano al palco bottiglie, questo e quest'altro, infatti le bottiglie e cose non potevano entrare. Ma te lo ricordi il concerto che ha fatto il 101, che c'erano tutti i cantanti conosciuti in Piazza d'Italia tanto tempo fa, che presentava Meganghi? Ma di che anno mi stai parlando però? C'era Manuela, mia figlia piccola, ti parlo che avrà avuto Manuela, avrà avuto 6 anni, 7 anni, era con me al concerto, l'ho portata io, e adesso c'ha 33 anni, non ti dico altro. Però hanno lanciato, a Meganghi hanno lanciato una cosa di acido, una bottiglia di acido, un cappellone, l'hanno inseguito poliziotti, carabinieri, vigili urbani, da poi l'hanno inseguito un vigile urbano malimento. E a quell'età io stavo a Milano, stavo lavorando a Milano, a quell'età ero ancora a Milano. Vabbè. Io l'ho visto proprio mentre la stavano arrestando, mettendo le macchine, e si ribellava, cioè, mi ammassavano la testa, la mia c'è tutto un capo a montare. Vabbè, sono lavorato a cercare, comunque sono lavori pesante, perché come lavoro fisico non ti stanchi, è troppo mentalmente che cazzo di testa. Vabbè, tu quando trovi questa gente qua, e un'altra volta c'era la festa delle forze armate in Piazza d'Italia, e questo qui si è messo a gridare, abbassa le forze armate, a voce alta, cazzo di arrestarmi giù. Che furia. adesso vediamo. Io ho fatto, sono andato lì a compensevole, vediamo un po'. È entrato un collegamento io lì e sta facendo servizio all'aeroporto. Okay. Ah, buono. E allora conosce anche Badiotte. Dipende, di notte sicuramente, di notte, dipende il tuo negozio. Ma che Carlo lavora lì all'aeroporto di Alghero? Carlo, quello che muove da qua, lavora lì all'aeroporto di Alghero, lui fa controlli, fa queste cose qua, però la notte non stanno più lavorando, la notte l'hanno dato in gestione a una ditta di guardie giurate. E la Coppa Service la sta facendo. E questa Coppa Service è nuova. Nuova? Sta utilizzando la roba pari 20 anni. Ma io non la conoscevo. Io conosco Bordi al Pole, tutte queste qua, Executive, tutte queste che conoscevo io sono queste. Allora questa è la Mondial Pro, a fianco c'è la Coppa Servi, e dove c'è dopo il bar delle vele, dove avevano fatto la rapina, a fianco c'è la Coppa Servi. Capo, si fanno concorrenza a fianco. ma Executive è buono perché c'è un amico mio, ma lui era socio, e si prendevano anche gli utili a fine anno. Adesso ce ne sono casine che si chiamano, cazzo per metro, cazzo per mezzo a poco di rama, vicinanza a rama, un casino ce ne sono. Io quando ho fatto la domanda io l'ho fatto anche di istituto di vigilanza perché me ne volevo andare, era poco, che non voleva di più. Questo qui mi ha detto quello che c'è dietro via Limita. Mi ha detto guardi se conosce gente o cosa, se non conosce gente questa domanda che sta facendo, questo curriculum ma resisti. Sì, ma adesso sta cambiando già, perché adesso la gente non si sta cambiando, non ne fa più questo lavoro qua, perché ti ripeto, la paga è una miseria e quindi la gente si ha rotto i coglioni di lavorare ore su ore e per che cosa? Per non pigliare un cazzo e quindi sta diminuendo il personale. Sono entrato a Vescio che devo fare un po' di commissione. Ma chi è quel magone di cose? Lo sento bacio che... Emanuele Magone. Sì, se lo qui sta via Magone. Tutto a posto. Ehi, Emanuele, tutto a posto, niente in ordine. Sempre a forza di medicini, KK. Vabbè, portate tutto a posto, che si va avanti, cosa vi fa? Tanto la vita è quella che dobbiamo fare. Io dico, guarda peggio meglio così. Si confermando, per andare peggio è meglio proprio così, vabbè, non ci lamentiamo dai, è importante che si dia matracca. Emanuele, com'è? Com'è, mica adesso fa un po' mi preparo per andare a lavorare, com'è? Fissa domani. Cazzo, ma sempre di notte, sì? Sì, non sempre, però a volte faccio i pomeriggi, dalle 2:30 fino alle 11 di notte, poi faccio la notte dalle 10 fino alle 6:30 di mattino. Grazie, ma te lo trovi in balle, No, io il tuo lavoro l'ho fatto l'anno scorso a luglio e ad agosto ad Alghero, all'MD di Alghero, che me l'ha chiesto un amico, c'è una società di sicurezza, antitaccheggio, divisa naturalmente, no? Tipo quella che c'è tu, però senza essere armato e niente. Ma una rottura di balle, mamma mia! Se abituato, non so, se non sei abituato a stare così, è normale che non ti passa un cazzo. Ma all'interno del supermercato o fuori? No, già all'interno, ma non ti passa mai l'ora, capito? Facevo due turni, a volte facevo dalle 10 del mattino sino alle 2:30, oppure facevo dalle 2:30 sino alle 8:30 quando chiudeva il supermercato. Cazzo, ma non ti passa più, capito? Anche perché è un posto molto tranquillo lì a Carbonello, no? Dove c'è il ruscello, l'MD che c'è lì al centro commerciale di Alghero, capito? Gliel'ho fatto, me l'ha chiesto, non c'aveva personale, dove te lo faccio, ma non voglio nessuna pretesa, grazie a Dio non ho bisogno di niente, però cazzo mi ha pagato, la verità, mi ha pagato. Ma è una rottura di balle fare quel lavoro, cazzo, mamma mia quant'è monotono, cazzo, tutta la d'inchibi dentro, senza vannuda, gli rendi, controllendi, che poi ti ripeto è un posto tranquillissimo. Passeggiando in mezzo agli scaffali. No, tu Gianni mio, ne ha rottura di balle. Lo so, quella sera non passa mai. A me la sera non mi passava mai. La mattina manco mi avvisavo, ma la sera non passa mai, perché c'è poca gente e non ti passa. No, ma di traffico c'era, luglio-agosto, capito? Luglio-agosto, però ti ripeto, già ne vedevo anche di bella gente, è la verità, tutti turisti, queste cose così, però c'è sempre all'interno, non è che a volte mi mettevo in cassa per controllare, sai, che c'era qualche manfrina, ma di solito stavo sempre girando a destra e a sinistra, non ti bacia più, mamma mia. Sono lavori che non è che fai fatica, però ti staccano proprio mentalmente. Cazzo, mentalmente e fisicamente, tutta lì in piedi, capito? Dalle 2:30 fino alle 8:30 e poi dovevo rientrare a Sassari, cazzo, mi ha rottura di balle. Tipo quello che inizialmente faceva Manuele, no Manuele, tu inizialmente facevi quello. Ma lo spicco. Sì, io facevo quello lì, sì, facevo lì all'Eurospeed di via Carlo Felice, facevo lì, facevo i turni, facevo dalle 9:30, poi smontavo all'1, poi dalle 2:30 fino alla chiusura, ed era una rottura di coglione perché dovevo stare a guardare se entravano con i traniti, non potevano entrare con le sacche qui e là, dovevi dirgli di metterli lì in un angolo, un casino. Lo so, una volta mi è capitato un mezzo zingarello che quando è entrato il cassiere mi ha detto oh, c'ho ghiscio, e quindi lo seguivo, l'ho fatto, poi l'ho pizzicato alla fine che c'era cazzo due scatole di tonno, bovaraccio, ma cioè era anche vergognoso, cioè uno come me che non c'era abituato, non è una bella cosa, capito? No? Infatti ho detto mamma mia cazzo, dove hai finito? E fa ma cazzo, no aspetta, c'è un altro mercato, ancora un altro mese, io vado a Mizia, no, che io non è lavoro per me, te l'ho detto, ti do una mano, ma non è una cosa per me, infatti mi è rimasta la camicia, quella nera, il pantalone, il cinturone, insomma, mi è rimasta tutta la cosa, me la sono tenuta, ho detto, magari se serve, tieniti tutto, se serve ti richiamo, mi ha anche chiamato quest'anno alle medie di Sassari, ha detto no, secca di non altro, io a Sassari mi conoscono tutti, non agio di Varaguardia, nessuno, Alghero mai non ti conoscono, ma a Sassari non te ne faccio servizio. Dimmi una cosa, ma chi azienda era? Monaco oppure? Quella di Olbia, adesso non mi ricordo come cazzo si chiama. Boh, aiutami, non mi ricordo. C'ha una divisa tutta nera con la cravatta rossa. La Olbia me ne sono bene, io ho lavorato con un'azienda di Olbia pure, però me ne sono bene la marica azienda. Non me lo ricordo, ma noi devo vedere, c'è ancora il tesserino, perché sai, no, come facevi tu, c'hai il tesserino appiccato, c'è il limpio, il bomba, insomma, cosa del genere, ma non mi ricordo se l'azienda, ce l'ho in macchina ancora il tesserino, non me lo ricordo, c'è un nome strano. Comunque è una bella azienda, perché c'hanno un sacco di, c'hanno città mercato di Olbia, c'hanno un sacco di supermercati di Olbia, c'hanno Oschi, c'hanno Tieri, c'hanno anche Sassari, Alghero, Porto Torres, capito? C'hanno comunque di supermercati, però gli ho detto non mi chiama più, addirittura mi hanno chiamato anche per lì a a Roccarruia, a fare servizio a Roccarruia di notte, dalle 10 alle 6 mattino, vai e girami di bibiditi, non hai bisogno di sta, a me la notte inviati che stiamo di guglione a casa, no, in piedi. Aspetta che vuoi aprire qualcuno, va di chi? Caparoggio, senti come sto scendo bene. Aspetta, la vendretta, sì, che linea hai messo? Uno sicuro a valle. Allora va solo, mi voce non prendo. Cappaloggio, la formativa. Guarda, da roba non per 30 si è arrivato. Se sono bravi a Claudio, no, so forse magari perché sono zona alta di corso. Però per tipo tutto il golfo di schiena sono un po' coperto. Martino, intendi chi tu Zampi? Qual è tu Zampi? Quello di Maliccia. Ma non mi sente a me, io la sembramo dolente. Non intendi tu? Zampi o Zampai? Come non intende parlare ci soldi? Chi era l'amico che non ho sentito bene? E apri di la recce, da giurito a chi ci soframo dolenti, non intendi? Ma non intendi? Cucù, vabbè, ciao, arrivederci. Riprendi, Emanuele. Già, a me non mi sente nessuno. Saluta San Pei e tutti i pesci, ciao. Allora, c'è se... Se non intendi chi sto sotto, la cattività. Sappi, lo senti a Claudio? Lontano lo sento lontano, però già lo sento. Mi sembra che poco fa mi ha detto a vedere cosa stavo facendo. Quando ci intendi? Comunque, se mi faccio non tenso, no, a forte, perché da 9 a 9 e 30 si è andato. Ehi, agatta. Adesso non metto il stand-by a tirare il taglio della bustella. Chi sa, vai, se sempre arrivati un bel po'. Non lo so, adesso rivenda va. C'è sempre quando scala, è come se non è staccato. Aspetta a vedere. Staccalo del tutto. Oh, adesso com'è? 9 qualche cosa, dai, 9 e 5. Dai, già va bene, già va bene. Ieri ho attaccato un'altra radio, a Giumasi Cupiegio. Allora? Non lo so, boh, deve essere che, siccome non, magari non è abituato con radio che escono tipo 20 watt, capito, l'ho attaccata, la stavo provando, un Jackson, un presidente Jackson grigio, c'è il tastino dietro, però sicuramente c'è qualche volo riallineato, poi non c'era nessuna frequenza con la tua radio, ma non lo so se funziona bene, vi raggiungo un bene, la verità l'ho attaccata una volta, mi hanno detto che era pure frequenza e quindi sto sempre usando questa che ho adesso. Probabilmente è dato troppa entrata. ce la facevo. Avanti qua. Claudio. E se non è menzionato Claudio. Ma vabbè. Trattalo con Miss, se andava con Miss, trattalo con Miss. È un Alan 68 originale di Ghissi del 1983 o 85, rimane migliorati e cariti. Ho visto sotto il tappo, ho visto che dentro non ha mai toccato nessuno. L'SM Mister sembra che funzioni bene. Niente, c'è il microfono originale, sto parlando con il microfono originale. E niente, è il suo gusto, è il suo gas. Abito appena più giù di Franco, quindi zona alta di sotto. Ho capito, sì. Praticamente hanno un'entrata quelli lì, hai capito, li puoi dare praticamente portano mai 3-4 volte e poi li puoi fare entrare in parte delle cose, perché se è stroppato come batti, baracchino, ci basti di più. L'amico che mi ha chiamato, l'hai sentito tu, l'hai copiato? Che stavo parlando? No, ma dici ciao Sampi, avanti all'amico che mi chiamava, ora, ecco, qua Sampi dal Golfo della Sinara. Ciao, già, salutami tutti i besci. ciao, Cla. Cazzite, mezzogiorno, ciao. E voglio stare adesso, non c'è problema, tanto fra un poco non ne vado anch'io. E adesso, non vedo una che sono al buio, 2:30. A me parlare con la gente che metto sorda, poco mi piace, ciao. Ebbene, l'amico che mi chiamava, ciao, Sampi, qua, in modulazione. E allora Sampi, ma questa volta ce l'avevi tu o le comprate da poco? Cosa? Se non ti ho capito bene. Ho detto, questa radio ce l'avevi già o le hai comprate ultimamente? No, allora, io avevo un Intec 548 SI, da, mi sembra che sia 200 canali così, o 120, però funziona ma non funziona bene a livello di voce, questo è più chiaro, è più forte. E poi niente, ce ne ho cacche, e qualcuno ne ho, l'Alan 48 e l'Alan 68. Sono tutti modificati con gli adesivi e con i tappi verniciati in base all'adesivo, là. Quello che sto usando adesso è quello di Che Guevara, ve l'ho fatto di Che Guevara. Poi ne ho un altro di Hitler, in bianco, con la scritta, una scritta con il passo, aspetta che non me la metto, non ho cosa che la scritta, da vincere sempre, una cosa del genere. Poi ne ho uno di Diabolic, uno di, come si chiama l'altro, Joker, uno di Valentino Rossi, una paragiuga che di minori gusti. Tutti completi con il microfono e con la tappa. Ma li hai modificati anche all'interno? Sono modificati con l'apparecchio? No, ce n'è uno forse modificato, quello dello squalo, perché l'ho preso da uno di Napoli, l'avevo preso da Wallapop, mi pare, ho pagato 35 euro spedito, non c'aveva i tappi fatti a bomboletta, neri, da tutto mese un po', e ho messo una mascherina che avevo, con l'adesivo dello squalo, e l'ho fatto celeste, gli ho messo l'illuminazione celeste nei bottoni, nelle semister mi pare. No, boh, ci sono due schedine lunghe dentro, dovrebbe essere una del tipo dell'eco, una del beep, e l'altro non lo so se è tipo un amplificatore per il microfono, però non lo so, vorrei provarli piano piano a uno a vedere se funzionano tutte correttamente. A livello di watt dovrebbe, quella lì dovrebbe avere qualche watt in più, ma le altre sono tutte tipo originali, sì, 7 watt massimo, va. saranno i canali modificati, sicuramente hanno ampliato i canali, hanno fatto 120 canali. No, certo, se no me ne avviso, perché quando giro arriva normale, poi quando muovo i tastini non ce n'è, tipo ne capisco canali bassi o canali alti, invece nell'Intec invece sì. Però no, non lo sto usando, anche questo andrà più bene. Accendo l'alimentatore, c'ho un Intec 10-12 attaccato, un PS12 mi pare che sia. È la radio normale. E poi qualche volta gli accende lineare. Meglio, va bene. Tanto quella gente che c'è adesso, prima era tutto pieno, ma tu modulavi già da tanto. Quando ero un ragazzo modulavo, mi chiamavo Piedi di Piombo. All'epoca aveva di Porto Torres, c'era uno Alfa Verde, poi c'era l'altro che si chiamava, non me la metto, poi c'era cosa, Bovaro Braccio di Ferro, da cui veda l'altro Falco Nero mi pare, e poi c'era Rambo con i C2A. No, io conosco Falco Nero sempre che sia ancora vivo, però di sorso. Sì, ci va a rubare un sito, mi pare, o così di Malta. E l'altro di Porto Torres è Albatros, che non lo so, magari c'è me ancora. E cosa invece quello di sotto, qui c'era anche Vanino di sotto, però con lui non modulavamo molto perché c'era sempre Jugendi a livello di portante, né? E quindi povero Pietro, Braccio di Ferro, così adesso lo attaccava a gas lineare potente, massiccio, e allora lo facevi fuori di capo, perché alla fine si battagliavano loro, noi ci siamo irredenti, resistenti. E dopo non vedi niente, anche femmine c'erano di Sassari, di latte dolce, di latte di dove erano, di Monte Bianchino mi pare. E a me lo dice, io mi gioco una cinquantina d'anni per questo. Non so, io ho conosciuto tutta la frequenza da quando ha cominciato. Sì, vabbè, prima era una cosa diversa, c'erano ragazze, ragazzi, si andava a ballare, c'era la sede a Sassari, si organizzavano pizzate, bagnate di paese, giocate di carte, caccia al tesoro, gitte, tutto quanto. La negozia è bello perché ti diverti allo stesso tempo e sei tranquillo, si passa il tempo e non fa nessun tipo di distamento a livello. Poi magari tornano a entrare mia inverno adesso, capirà, con la scusa che magari sa che tu lo usi, che io lo uso, dici quasi quasi me lo do a Silvino, me lo do a Bocca un attimo. C'è cosa, un amico di Valle d'Uria che ce l'ha, si chiama Tore, però ha detto che fa un dipolo 31 gas e non imbarca, ha detto che ha gli azzurro americani e turchi. Lugugnone, dimmi Lugugnone, forse lo conosco. Correva in macchina, Biguretto. No, non è lui allora. Perché ne conosco uno di Tore di Valle d'Uria io. Non conosciuto in ospedale. Aveva fatto la stessa operazione. E vabbè. Ma comunque prima ce n'era, era il canale dove girava, era pieno. Ma c'era anche un di bombessa prima. E a Falco Rosso con i C2A, noto Francia in su. Li ho sentiti tutti quanti. C'era anche Badesi, sentivo. Badesi a Briscolone, non so se l'hai mai sentito. Sì, cosa, vedi un Falco Rosso, una Dini si ha raccontato che ha detto che era Gabustenni, e Mari era vende il riso e pastelli, e dice l'ha suonato la Terreni. Ha detto che c'era stato un gabbo, ha detto che c'era stato un gabbo alla Terreni e ve l'ha cianconata. Ha detto che il comandante voleva l'assicurazione. E mi dice che la sera è rilevante. Yes. E sera che ha già fatto vitraglia, che impara una da manillassa. fuggi, ha detto che fa pure una Vespa, che c'ha la ditta con un compressore fatto con una bombola di rugace, un imbuto, ha detto a pieno la bombola di vernice, l'ha caricata d'aria, da poi ha vista tutta un'ora, ha fatto la Vespa tutta canta, peda, tutta in una volta la giudì. E lui mi era una sassa, non chiamava le mitraglia, mi raccontava una da buon di là, una volta ha detto proprio la Vespa, e mi ha acciappato un nido di verdure con le uova dentro, e la buccia vista dove si mettevano la Vespa di attrezzi, che era sopra il motore, no? Una di casa dice, me ne ero voluto dimenticare, dicendo cipi per la di bidone con un galone di un motore. Beh, già veneggia ti fura ya. La Vespa già la conosco, peraggio, una di due, di spiccia la faccio. Belle sono, a me mi piacciono quelle, con le ruote del 125 primavera e la sella lunga, mi piace di così a me. La Vespa è bianca, non ce l'è, come quella bianca proprio bella. E la vedi che una volta la scala di ciocca, la vedi di buco, i gaggi, fate un fuso e dormire cosa c'era, il tesoro trovato. Gesù Maria, chissà cosa ha avuto a te, come te che tu cazziatori che ha distrutto due o tre pugni di Monza, da poi che ha tirato un coniglio, che come tira molto, può vendere anche, ha detto non ha carraggiato un chilo di Monza. Paolaggi, ma carindà. E una volta tu gli ha perseguito una meteorite che andando la bicicletta e cazzo la bigliata, se mi la meteorite in mano cazzo di brucia è focata cazzo. E lui l'ha preso in mano e infatti ce l'ho ancora come ricordo sopra il mobile. Breco? Ci sono i chissi dei vaccini, il cugino di Falco Rosso dei vaccini, a chi a livello di cose soffri fritti. Aspetta che c'è un break, avanti, no? No, un controllo veloce, scusate di subito, come sto uscendo? Prova! 1, 2, 3, prova canale 10. 9.30, radio 5, a bo. Cacca, mi ha fatto spaventare poco fa, era Roma, canale 12, stavo facendo prove e mi ha detto che stavo facendo tutto sblatterato, Marco. Da me sto uscendo bene. Sto uscendo pulito, tranquillo, la mia radio. Sì, Roma, sì. Forse dipende da lui, magari aveva qualche apparecchio che lo riceveva bene, È abbastanza forte la radio, probabilmente se ti ha sentito con qualche HF, magari non riusciva una frequenza più stretta, un'altra più larga, quindi magari ti sentiva così per quello. Marco Condor sto dicendomi. Ah, ma io pensavo Marco come si chiama, vabbè, già mi hai capito. Non voglio fare cognome. Già ho capito, dai, quello che stai dicendo, l'altro radio amato. No, mi sono spaventato, tu boh, qua sta andando tutto bene. Eravamo sull'11 per non disturbare con Roberto, quello di Alghero, che lui stava provando un'antenna di lì, una Grand Plane. E ce ne siamo andati sull'11, mi ha detto, ti sento tutto sblatterato, tutto fuori frequenza, tu boh, che strano. Ieri sera l'ho usato, c'era anche Tino e Gavino, e andava bene. Ho detto, ho guardato qua tutte le connessioni, tutto a posto, e rosso non ce n'è, a zero, completamente, zero. Completamente, non c'è nessun problema, ho detto buh, che strano, mi stavo preoccupando per la radio, questo è 4.40, ho detto cavolo, ci manca solo mi rompo la radio. Scusate l'intromissione, chi è l'altro amico che non ho salutato? Sampi, così, confermi? Cappa Roger, affermativo, già ti sento. No, ti ascolto bene, quasi 9, 16 anni, vabbè, Gianni arriva sparato qua, non c'è bisogno di dirlo. Come mi ascolti di lì nelle tue coordinate? Sì, abbastanza chiaro, però ti sento lontano. L'estremister mio della radio non so se magari funziona bene, però ti sento bene, dai, ti sento bene ma lontano. E dove ti trovi, scusa, se lo vuoi dire? Io qua sono zona alta di Sassari. Io sono a Sotto, zona alta. No, vabbè, no, già va bene, dai. È quasi 19 c'è di segnale, dai, ti attiro senza nessun problema. Dai, scusate la trasmissione, dai, ci sentiamo prossimamente, magari in altre condizioni che sto facendo delle prove. Ciao a tutti, ciao Gianni e ciao l'amico nuovo che non ho mai sentito. Ciao, vabbè, non c'è problema, quando vuoi entrare, entra, non c'è problema. Vabbè, ti saluto, sapevo che devo portare giù il cane adesso e vado a fare una passeggiata, dai. Ciao a tutti e quelli per me. Scappa Roger, andate, dai, buon proseguimento e a poi da si piglia che l'epparo e fallo subito al barbecue. Andate, ci sentiamo alle prossimine, ciao ciao. Epparo no, ma visto di faccia già non ha avuto. Chi si utilizza per fare, se no c'è buono a te. No, io non ne ho mai mangiato, libero pure. C'era un anziano vicino qua, da me, quando li prendeva, pensavo che si faceva. Li pugna di finanza la graviglia, una volta si bruciavano tipo tutti quanti gli acculi, lo rassicava tipo come se lo bucchino, no, piano piano. Poi lo rimetteva nella graticola, lo faceva gonfiare un po', e poi piano piano con una rasoggita, che pareva un macellaio. La prima ne toglieva tutta l'inferiore intera, dal collo a dietro, e poi lo faceva aglio, prezzemolo, tu dovevi dire, ha detto che non vedi la cosa più buona di chi. E ma a me mi ha detto che fosse nato una notte, anche se no se rimane la vicinca, sai, senza pisciare un mese. E quello dice che però quando gli faccio i rubini dentro, questa specie di sacchetta in mezzo ai fittini, però quest'uomo aveva un'abilità che cioè no, la toglieva intera la sacca dell'interiore, capisci? E poi magari lo metteva, lo lavava, lo risciacquava magari con un po' d'aceto, lo faceva girare come se tu duri, e poi lo rifaceva di nuovo a rosso, gli spennellava l'olio, guarda, c'era un profumino Giulia. A me non mi entusiasma, vabbè, comunque ognuno mangia quello che vuole, poi vedi pure ci mangia di giuri.